1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:18 minuti in questo istante, noi siamo qui, siamo in diretta, cari ascoltatori. E voi che state facendo? Vi do il numero per i messaggi, 349-238-6666. Ci avete abbandonato? Se è così non potete scriverci un messaggio, quindi che ve ne frega. Però se invece siete con noi, ditecelo. Qui vi ricordo che parleremo di che cosa alle 8:15? Beh, torneremo a parlare della vicenda dei migranti, delle migrazioni. Ci sono stati nuovi sbarchi ieri in Sicilia, una vicenda sulla quale, come era presumibile, come avevamo detto, dopo che è finita l'onda dello sdegno, l'indignazione per la maxi tragedia di qualche tempo fa, nessuno ne parla. Noi oggi torniamo a parlarne, avremo con noi anche l'inviato della Stampa, Domenico Quirico. Torna a parlare ai microfoni di Radio 24 anche per raccontare, insomma, della sua vicenda. Ricordate, fu protagonista suo malgrado di un lungo rapimento in Siria, inviato della Stampa, con lui altri ospiti. Questo ad alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È venerdì 1 novembre, i titoli dei quotidiani. Il Sole 24 Ore apre su caos imposte sulla casa, rischio nuovi aumenti. Per l'abolizione dell'IMU sono ancora da trovare tra 2,4 e 3 miliardi di euro per i comuni. E pensate un po', scrive il Sole 24 Ore in prima pagina, per cancellare totalmente la seconda rata dell'IMU spunta l'ipotesi di un prelievo sulle banche. Questo l'articolo di Gianni Trovati. La Stampa ha un'intervista al premier Enrico Letta. È un'intervista all'interno, con altri quotidiani europei, all'interno del progetto Europa, per cui parla soprattutto di Europa il premier italiano. Fermiamo i nemici dell'Europa, questo è il titolo di prima pagina della Stampa. Alitalia è l'apertura del Corriere della Sera, un piano per salvare Alitalia, mentre il Messaggero: Alitalia salvataggio nel caos. E poi la notizia da cui apriremo tra poco, con cui apriremo la rassegna stampa: le telefonate della Cancellieri. Così il titolo di prima pagina di Repubblica, questa vicenda che sta assumendo i contorni dello scandalo politico, almeno da come è dipinta dai giornali. Il Fatto Quotidiano: la ministra dei Ligresti, Cancellieri non si dimette, così apre Il Fatto, mentre il Secolo XIX, Cancellieri nella bufera. Il Giornale: graziata la ministra. Mentre libero, la Germania ci deruba, questo è il titolo di prima pagina. L'Unità invece: un paese disoccupato, i nuovi dati molto duri sulla disoccupazione. Il Manifesto: il tetto che scotta sulla manifestazione di ieri per i diritti alla casa, che purtroppo è degenerata anche per alcuni violenti. Siria: la strage dei cristiani, questo invece è il titolo di apertura di Avvenire. Ma appunto concentriamoci sulle polemiche per le telefonate del ministro Anna Maria Cancellieri, che quando fu arrestata l'intera famiglia Ligresti, subito si attivò con una serie di telefonate di solidarietà, anche perché è un'amica di famiglia dei Ligresti da tanti anni, non lo ha mai negato. E soprattutto sono nell'occhio del ciclone sono finite alcune telefonate che ha fatto per sensibilizzare sulle condizioni in carcere di Giulia Ligresti, che poi è stata liberata, meglio, messa agli arresti domiciliari per le condizioni di salute molto molto precarie per la detenzione. Cancellieri sotto attacco, è un dovere intervenire sul caso di Giulia Ligresti, così si difende lei, pagina 21 del Corriere della Sera. Tutti i giornali pubblicano le intercettazioni. Fabrizio Massaro, per esempio, sul Corriere: si attiva subito il giorno dell'arresto alle 16:42 dal suo ufficio di Roma, risponde a una telefonata di Gabriella Fragni, vale a dire la compagna di Salvatore Ligresti, il giorno dell'arresto, 17 luglio. Sono mesi che ti voglio telefonare per dirti che ti voglio bene, la mia vita mi scorre in maniera indegna, Ma oggi dico, devo trovare, te lo devo dire, ti voglio bene, guarda, ti trovo vicino e tu non puoi immaginare da quanto tempo. Così dice il ministro Cancellieri dall'altra parte alla compagna di Ligresti, Gabriella Fragni, che piange al telefono. È stata la fine del mondo. Sì, la fine del mondo, risponde il ministro. Io non è che ammetto che non ha fatto errori, riconosce Fragni parlando del compagno Salvatore Ligresti, 81 anni. No, però c'è modo e modo, chiosa il ministro Cancellieri, che poi aggiunge: comunque guarda, qualsiasi cosa io possa fare, conta su di me. Non lo so cosa posso fare, però guarda, sono veramente dispiaciuta. Se tu vieni a Roma, qualsiasi cosa adesso serva, non fate complimenti. Guarda, non è giusto, non è giusto. Così parlò il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri, che poi più avanti, quando ci fu la situazione di Giulia Ligresti, quindi la figlia di Salvatore Ligresti in carcere, a questo punto si attiva nel senso che la compagna di Salvatore Ligresti decide di intervenire presso la Cancellieri. Per farlo si rivolge al fratello di Salvatore Ligresti, Antonino Ligresti, gli dice: senti Nino, vorrei che tu raggiungessi, perché io non ci sono riuscita, quella nostra amica. E il 19 agosto Nino la informa: ho stabilito il contatto e aspetto una risposta. Dai tabulati di Ligresti risulta una chiamata quello stesso giorno con un telefono in uso al ministro. Appena tre giorni dopo, al procuratore aggiunto di Torino, Vittorio Nessi, Cancellieri conferma la telefonata, conferma l'interessamento dicendo: ho sensibilizzato i due vice capi dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Cascini e Luigi Pagano, perché facessero quanto di loro stretta competenza per la tutela della salute dei carcerati. Si è trattato di un intervento umanitario assolutamente doveroso in considerazione del rischio connesso con la detenzione. Però qui ci sono le polemiche, insomma, lo ha fatto per un amico, lei si difende anche con Repubblica, Liana Milella fa un colloquio, ieri Repubblica ha tirato fuori questa vicenda per prima e oggi Liana Milella va a sentire il ministro Cancellieri, che dice: intervenire era un mio preciso dovere, l'ho fatto in decine di altri casi, l'onore nessuno si può permettere di metterlo in discussione, non sono arrabbiata, sono amareggiata. Ma racconta Repubblica, pagina 4, è sicuramente il giorno più difficile da ministro per Anna Maria Cancellieri, che dice: sono miei amici Ligresti, lo sanno tutti, ma avrei fatto quello che ho fatto anche se non lo fossero stati, ho temuto un suicidio, comunque un atto di autolesionismo, mi sono mossa per questo. Un'altra volta mi sono mossa, per esempio, per un detenuto di Padova, Stefano, che Corrado Augias e Adriano Sofri mi avevano segnalato. Intervenire è compito del ministro, non farlo sarebbe colpevole, si configurerebbe come una grave omissione. Così si difende Anna Maria Cancellieri, per la quale l'opposizione chiede le dimissioni. Si è scatenato un pandemonio politico anche per Libero, Cancellieri un altro ministro da buttare. Il Fatto la definisce il ministro, invece che guarda sigilli, il ministro guarda Ligresti. Questo a pagina 2, anche per il Sole 24 Ore, nell'articolo di Filomena Greco a pagina 9, caso Ligresti, bufera su Cancellieri, anche se il ministro si difende, nessuna interferenza, anche se la cosa più curiosa, la pagina più curiosa in tutto questo c'è sulla Stampa. Pagina 9, sapete come Giulia Ligresti, cioè la persona che è stata aiutata per le sue condizioni in carcere da questa telefonata, come Giulia Ligresti definiva il figlio della Cancellieri, che poi si è mossa appunto per lei, il figlio della Cancellieri, Peluso, che aveva lavorato per un anno nella compagnia di famiglia. Un idiota! Forse a saperlo prima. Al telefono Giulia attaccava il figlio del ministro. Le intercettazioni, diceva di lui, è venuto a distruggere una compagnia, è stato un anno e gli hanno dato una buona uscita di 5 milioni. Ti rendi conto? Parlava così Giulia Ligresti con un interlocutore al telefono. 5 milioni, è stato un anno, ha distrutto tutto e gli danno una liquidazione invece che chiedergli danni. Mi han detto che in consiglio nessuno ha fiatato, approvato tutto all'unanimità, se fosse stato il nome di qualcun altro a mio padre di 85 anni avrebbero contestato quella cifra. Questo qui a 45 anni è un idiota, perché veramente è venuto a distruggere una compagnia, lo ha fatto proprio su mandato, la distruzione. 5 milioni è andato in Telecom e l'Italia non scrive niente. Così Giulia Ligresti si riferiva a Pier Giorgio Peluso, che è stato un anno appunto nella compagnia di famiglia, nella fondiaria, e lo definisce un idiota che ha distrutto la compagnia, il figlio del ministro Anna Maria Cancellieri, che poi si è mossa per motivi umanitari, dice lei, per farla uscire dal carcere. Vabbè, una vicenda molto complicata. Prima ne parlavamo anche con Massimo De Manzoni di Libero e Alessandro Giglioli dell'Espresso. Secondo Massimo De Manzoni non è possibile che in queste condizioni rimanga ministro Anna Maria Cancellieri qualche giorno di più, e che succederà così. Staremo a vedere. A proposito di Libero, c'è una notizia in esclusiva messa in prima pagina da Libero: mi hanno attaccato l'unico motivo piccolo per essere ancora un fiero milanista, Kakà. Ebbene, sappiate che scrive Libero in prima pagina: Kakà ha guai col fisco ed è indagato a Milano. Fabrizio Biasin e Martino Cervo, Kakà è indagato dalla Procura di Milano, il secondo infortunio occorso al campione brasiliano, uno di gioco e questo di altro tipo. Guai col fisco, la vicenda continua poi all'interno a pagina 15. Secondo informazioni in possesso a Libero, la verifica non riguardava inizialmente in prima persona il calciatore, ma una società interposta. Fatto sta che le indagini preliminari riguardano poi il fantasista, al quale, come detto, il 10 ottobre viene notificata la contestazione provvisoria di dichiarazione infedele. E malgrado il completo riserbo degli avvocati, Libero è in grado di anticipare alcuni dettagli relativi ai possibili sviluppi dell'inchiesta. Il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate in realtà si sarebbe già concluso con un accordo tra le parti, ma rimane in piedi la vicenda penale. La cosa infatti non libera automaticamente Kakà dalla questione penale, che lo vede iscritto al registro degli indagati per dichiarazione infedele per gli anni 2008 e 2009, anni nei quali aveva ingaggi di 9 milioni l'anno, gli ultimi due anni prima di passare a Madrid. Le cifre contestate a Kakà, secondo quanto risulta Libero, sarebbero attorno ai 2 milioni di euro. Mi hanno abbattuto. L'unico motivo per cui ancora guardare le partite del Milan. Kakà, vabbè, andiamo in pubblicità e poi rientriamo con la politica, con gli scontri a Roma, le notizie sulla casa, le possibili nuove tasse in arrivo. Pensavate che vi avrei liberato da questa possibilità il primo novembre? State lavorando? 349-238-6666 o state andando a fare una gita? Fatecelo sapere tra poco. 24 mattino. Oh, cari ascoltatori, alle 7:33 minuti, sono commosso, devo leggere qualche messaggio, perché chi mi scrive: sì, dai, sono al lavoro già da due ore a creare moda per il mondo, evviva. Oppure: sono Alessandro e vado a lavorare, ciao Alessandro. Oppure: Flavio, sono qui, ho appena finito di lavorare. Che lavoro fai? Il metronotte, non so, il DJ, animi le feste di Halloween, cosa? Moreno, sono tra i pochi pirla che lavorano. Moreno, no, sì, insomma, non sono tantissimi oggi quelli che lavorano. O Luca, causa lavoro, presente e fedele come ogni mattina. Margherita Enzo, in viaggio verso Napoli, evviva, sto facendo cappelletti e ravioli a Trodica di Morro Valle, mamma mia, e se passi di qui te ne offro volentieri, Gianluca, che possiamo fare? Sono in Finlandia, Simone, ci ascolta in streaming, a fare un dottorato a 44 anni, dopo 20 giorni sto facendo le valigie per tornare, bravo Simone. Sto facendo la lavatrice, Barbara ci sta ascoltando da Roma, evviva. E poi ancora, chi ha famiglia come noi, operativo H24 365 giorni l'anno, ci fa sapere un ascoltatore, evviva. Anche Alberto, figurati se ti abbandoniamo, che bello. Oppure c'è chi ci ascolta da Norimberga di solito, ma oggi a Bari mentre gusta un cappuccio, ma insomma, ma che devo dire, sono veramente commosso. Anche Claudio, buongiorno, presente anche oggi, evviva. E anche Rita che mi dice: ti sto ascoltando come tutti i giorni e le tue incazzature sono le mie incazzature. Vabbè, ma sempre col sorriso. Poi ora parliamo di politica e allora. C'è la politica, insomma, si porta avanti, si trascina avanti con le solite questioni un po' stantie e noiose, il tema della decadenza e il voto palese a Berlusconi. Ora la mossa politica è che le colombe del Popolo della Libertà a Grasso dicono ignorare il parere della giunta. A questo a pagina 6 di Repubblica, Tommaso Ciriaco. Ma Berlusconi sembra invece voler accelerare dal punto di vista della scissione o comunque della nascita di Forza Italia. Berlusconi piega i governativi, ho i numeri, subito l'assemblea, così titola pagina 3 del giornale con Francesco Kramer, oppure anche il Corriere della Sera: Berlusconi, ho le firme, subito Forza Italia. Ma insomma, la politica è così, sì. Proprio c'è anche il solito retroscena di Francesco Verderami: ho strabuzzato tantissimo gli occhi quando a un certo punto ho letto questa frase, a Berlusconi non gliela danno. Ero lì assonnato alle 5:30 e ho detto, ma si parlava però di agibilità politica. Ecco, tutto un retroscena sull'agibilità politica, firma Francesco Verderami a pagina 6, il cavaliere, la guerriglia parlamentare, un nuovo piano per mettere il governo alle corde. Ma nel faccia a faccia Alfano chiede garanzie sul partito e sull'esecutivo. E vabbè, così come il retroscena di Repubblica invece sempre si parla di possibile scissione, nascita di Forza Italia, secondo Francesco Bei a pagina 7 addirittura il sentimento di Berlusconi nei confronti di Alfano sarebbe questo: se Alfano se ne va ci fa un piacere, così avrebbe detto ai suoi. E ancora i falchi insistono: se si vota a marzo Marina Berlusconi non si può tirare indietro, sarà una campagna elettorale difficilissima. Ancora si guarda a Marina Berlusconi che ogni giorno deve stare a smentire. Oggi tra l'altro Marina Berlusconi manda una lettera molto piccata a Francesco Merlo su Repubblica, alla quale lettera Francesco Merlo risponde in tono altrettanto piccato lei non ha il sorriso. E vabbè, insomma, queste sono le schermaglie della politica. Forse le due notizie più interessanti sono il fatto che il voto per la decadenza Berlusconi palese si è trasformato nel giro di 48 ore nell'ennesimo psicodramma del Partito Democratico. E cioè adesso, come scrive anche il Corriere della Sera oggi a pagina 8, i malumori del PD sono questi: è stato un regalo al cavaliere. Cioè sono sempre più, come fa sapere Alessandro Trocino nel suo articolo, le firme e le voci di dissenso da parte di quelli del PD nei confronti di questa decisione del voto palese. Il più esplicito, scrive il Corriere, è Beppe Fioroni: sulle mie posizioni ci sono decine di colleghi del PD, è stato un errore innegabile dare il voto palese. Se lo cambia così il mio amico Renzi, il PD, andiamo a sbattere. Con questo voto abbiamo fatto un regalo a Berlusconi. Ma anche ieri Rosi Bindi, già neopresidente dell'antimafia, aveva detto: forse stavolta abbiamo sbagliato. Un esponente vicino a Letta come Francesco Boccia dice: le regole valgono per tutti e non si cambiano in corsa in funzione di chi si ha di fronte. Insomma, il PD ora vive questo ennesimo psicodramma. L'altra notizia forse interessante è che la stampa va a sentire Paolo Becchi. Chi è Paolo Becchi? È l'ideologo del Movimento 5 Stelle. È colui che, secondo la Vulgata, è stato chiamato un giorno da Silvio Berlusconi per capire da Silvio Berlusconi come va e come si fa politica. Ebbene, Andrea Malaguti della Stampa va a sentire il professor Becchi. L'articolo a pagina 4: Becchi, filosofo grillino, Silvio moderno, il PD è morto. Allora, in realtà Becchi non conferma mai direttamente di aver ricevuto questa telefonata di Berlusconi. La domanda: Berlusconi non le ha telefonato per contattare Grillo e Casaleggio? Ma che senso hanno queste domande? Sono cose private che non hanno niente a che fare con la politica. Beh, ha senso sapere se il leader del centrodestra si interessa all'esperienza 5 Stelle. Messa in questo modo, sì. Diciamo allora che Berlusconi è più moderno del PD. Insomma, in questa risposta c'è una conferma, diciamo, del fatto che Becchi sia stato chiamato da Berlusconi, tanto che il titolo della stampa è Becchi mi ha telefonato perché si interessa al Movimento 5 Stelle. In realtà questa frase messa così non c'è. Comunque, insiste Becchi, Berlusconi politicamente è finito ma ha capito l'aria, il prossimo scontro elettorale sarà tra il rinnovamento di Grillo e la conservazione del berlusconismo, ha capito che oggi la battaglia è tra il vecchio e il nuovo, tra la TV e la rete, tra la radio e i blog, tra l'oggi e il domani. E il PD? Chiede la stampa. Il PD è morto, risponde il professor Becchi. Bersani con noi voleva fare scouting, ma dai! Dimentica Renzi? No, non lo dimentico, semplicemente dico che è il nulla, una figurina, slogan, parole, un bel faccino, ma nessun contenuto, è un prodotto di giornali e TV, lo zero assoluto. Vabbè, così il professor Becchi, Silvio Moderno, mentre il PD è morto. Questa è la politica italiana, c'è anche un'intervista oggi, se la volete leggere, a Enrico Letta, due pagine sulla stampa, pagina 2-3, per la verità l'intervista è fatta insieme ad altri quotidiani europei nell'ambito del progetto Europa, avviata dalla stampa con altri cinque grandi quotidiani europei, cioè Le Monde, Il Paese, la Süddeutsche Zeitung, The Guardian e la Gazzetta di Borsa. E quindi, come potete immaginare, l'intervista verte soprattutto due pagine proprio sull'Europa. Combattere i populismi o distruggeranno l'Europa, questo è il titolo. Il Premier dice l'Unione Europea alzi la bandiera per il lavoro dei giovani, sia unita sull'immigrazione. Tra l'altro dice daremo delle compensazioni a Lampedusa per il tema degli sbarchi dei migranti. E l'unico riflesso sulla politica italiana in questa intervista, dice Berlusconi, è un populista, chiedono? Beh, un po' sì, un po' è un populista. Così Enrico Letta su Silvio Berlusconi. Va bene, ma io voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno, anche, buongiorno. Anche oggi lavora come tanti ascoltatori che ci scrivono. Il primo novembre ho fatto questo appello e sono commosso. C'è chi mi scrive sto preparando la bagna cauda. C'è chi mi scrive sto cogliendo le olive, Mimmo da Foggia. Chi mi dice sto portando il cane. Chi ho un pranzo con 16 persone. Sono già al lavoro, Patrizia da Como. Insomma, sono commosso, anche Mauro Meazza è qui a lavorare con noi. Allora, Sì, anche perché con i dati che riportiamo anche oggi sul Sole, sull'occupazione, avendo un lavoro meglio tenerselo, no? Certo, ed è un lavoro anche preparare il pranzo per 16 persone, come Patrizia ci insegna. E magari di maggiore soddisfazione di altri lavori che pure appunto svolgiamo, ad esempio tu ed io, che potremmo nel dare lettura di queste cose. No, ma poi Mauro, diciamo i numeri, ma sono veramente commosso. Antonella ci scrive sto facendo la musa al cioccolato, c'è chi ci scrive sono uscita in bici sul Selvino, ma è bellissimo, è un'Italia che si compone anche di questi messaggi, ci raccontano da nord a sud, chi un cappuccino a Bari, ma vabbè, insomma, Mauro, parliamo di cose più prosaiche, va bene. Tutti vicini, insomma, si stringono tutti attorno ad Alessandro Milan, potremmo dire. Noi quali accogliamo tutti, abbracci. Alessandro, tu hai visto la nostra prima pagina con questo rischio di aumenti di nuovo per via dell'IMU abolita, però non si sa se la compensazione la danno ai comuni sulle aliquote dell'anno prima, dell'anno dopo, e allora così, insomma, spiega tutto Gianni Trovati. Io non so, ho paura anche di rischiare un giorno di festa. No, infatti facciamo andare di traverso cose. Olive, mousse, cappuccini. Capisci la mia perplessità, Alessandro. Certo. Però ti voglio dire, ci sono un paio di cosette che uno si appunta, poi magari legge con calma domani, lunedì, al rientro, insomma. Che il lusso sta andando molto bene, lo raccontiamo su Moda 24, le pagine di Moda 24. È cresciuto molto specialmente nella vendita online, per cui chi ha le disponibilità spende, e spende molto. E poi che il bonus per le start-up, per investire nelle aziende innovative, bisogna aspettare ancora un paio di mesi, perché Bruxelles ha chiesto tempo, lo riferisce Matteo Prioschi oggi sul Sole 24 Ore, magari lo leggete con comodo lunedì, oggi è festa, preoccupiamoci di altre vicende, ecco. Chi può, però appunto tenete da parte questa indicazione, poi lunedì vedete con calma, recuperate anche queste cose qua. Tra l'altro, Mauro, oltre alla, alle operazioni culinarie che già gli italiani stanno facendo, ci fa sapere Luca in diretta che qui a Velletri si sta facendo il congresso del PD, insomma non è che sono sempre buone notizie per tutti. Scherzo Luca, ovviamente. Anche c'è ci sono i congressi del PD in ovviamente esecuzione. Ecco, tra l'altro, però, Mauro, mi ha molto colpito, perché io parlerò poi dei riflessi che ci sono stati anche purtroppo violenti a Roma tra un attimo dopo il traffico. L'articolo di Saverio Fossati cerca di spiegarci che cosa è successo a Roma, perché è stato aggiornato il catasto, è una questione che riguarda centinaia di migliaia di inquilini e di proprietari di case, e voi lo spiegate a pagina 2. Sì, è un'operazione che in realtà è già partita anche in altri comuni. Lo riferiscono Fossati da una parte per la questione di Roma e Cristiano Dell'Oste appunto per i precedenti. Questi adeguamenti sono un po' sono dovuti, nel senso che il catasto spesso ha dei valori fermi a decenni e decenni prima, quindi non tengono conto dei reali valori di mercato. E dall'altra però è chiaro che generano improvvisamente delle richieste molto più elevate per le imposte che si pagano sulla casa. Adesso poi quali si pagano e quali si pagheranno preferirei non avventurarmi. Questo certamente. In ogni caso, caro Mauro, ci ritroviamo domani, no, perché è sabato. Se domani tu non lavori? No, io non lavoro, tu sì. Ovviamente ti segnalo che su Libero scrivono che Cacà ha problemi col fisco, e io ho detto insomma, voglio dovrebbe, dire l'unico sole 24 ore? Sì, non ho capito. Sai già se Cacà legge il sole 24 non lo so, ore? Non lo so, potrebbe aiutarlo. Potrebbe, è vero, forse il dorso di ieri, quello per se hai gli sbagliato, errori fiscali sì. Magari per il passato, potremmo suggerirlo a Cacà. Mi hanno tolto l'unico elemento per essere ancora fiero milanista, mi hanno accusato anche Cacà. Va bene, ci ritroviamo lunedì, caro Mauro. Io saluto anche davvero tutti coloro che ci dicono, come Cristina, infermiera, sono al lavoro, viva tutti gli infermieri al lavoro e viva! O il Franco, tassista, una volta l'ho anche preso, mi ha accompagnato da un'altra parte, da una parte di Milano, e lo saluto con affetto, caro Franco. Allora andiamo al traffico e poi rientriamo. Va bene, non mi vorrei più staccare da questi messaggi tantissimi che mi mandate, come Italo che ci scrive: per favore leggilo il messaggio, lavoro in un supermercato, le vere vittime siamo noi, non esistono più domeniche, festività, nessuno ne parla. Oppure chi ci scrive: oh, che bello questo Gianluca, finalmente giochiamo col nostro piccoletto sul lettone e ci facciamo le coccole. Oppure chi mi dice: ti ascolto sdraiata sul letto, mi sono dimenticata, ho la sveglia sempre puntata. E vabbè, peggio per te. No, nel senso, peggio per te, ma meglio per essere con noi. Allora, tornando alle questioni della rassegna stampa, come detto, le questioni sulla casa riguardano moltissimi italiani, e attenzione, perché a Roma c'è stata questa modifica del catasto con il fisco che rivaluta molti immobili, e a Roma ieri c'è stata una manifestazione che purtroppo, anche per lo spirito era quello giusto, protestare per i diritti alla casa, il diritto insomma contro gli sfratti, anche diritti condivisibili, purtroppo come al solito succede, come spesso succede in queste occasioni, si sono infiltrati anche dei violenti. Ed ecco le immagini che vedete tutti di assalti proprio blindati dei carabinieri, perché a un certo punto si voleva andare al Ministero degli Affari Regionali dove si discutevano i piani per la casa, si sono frapposte le forze dell'ordine. Le immagini, le fotografie le vedete tutti, 4 carabinieri feriti, qualche arrestato, assalto al blindato, turisti in fuga dalla Fontana di Trevi, scontri al corteo, 2 feriti, 13 contusi, titola per esempio la pagina 19 il Corriere della Sera. Ovviamente adesso dire che era il corteo per la casa finito così è anche sbagliato. È chiaro che il corteo era portato avanti da persone che manifestavano per il diritto alla casa, ma poi è degenerato per l'ingresso appunto di questi violenti. Roma, scontri con i senza casa intorno a Montecitorio, 16 feriti, così titola Enrico Fierro a pagina 8 del Fatto. E comunque le foto le potete vedere di scontri e faccia a faccia durissimi, anche queste foto impressionanti di persone che hanno assaltato proprio sul tetto dei blindati dei carabinieri con i manganelli, e poi la situazione è finita purtroppo in violenza. Nel frattempo il governo ha posto 140 milioni sul piatto per affrontare l'emergenza casa. I manifestanti o comunque le associazioni dicono sono briciole per la situazione che deve essere affrontata, che è molto più seria, e in ogni caso questo è il dato di fatto. Tra l'altro, a proposito di manovre e di tasse, spunta una nuova tassa, la tassa su Google, così è già stata ribattezzata, una proposta del PD, ne parlano tutti i giornali, qui leggo dal Messaggero a pagina 9, la proposta del PD per applicare il prelievo alle attività italiane dei big del web. L'obiettivo è mettere una tassa lì per recuperare più risorse, per ridurre il cuneo fiscale, dunque il costo del lavoro, e dunque mettere in tasca un po' di soldi per i lavoratori. Chissà, questo è il dibattito sulla legge di stabilità che è in discussione alla Camera. Ci sono anche tanti articoli sulla situazione di Alitalia, perché ieri Air France ha deciso in pratica di considerare zero il valore di Alitalia. Con le dimissioni del presidente Colaninno, schiaffo di Air France, la compagnia vale zero, così pagina 2 del Corriere della Sera. E c'è un'intervista al ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Lupi: se Parigi se ne va, andiamo avanti con le poste o cerchiamo un partner. Così Antonella Baccaro intervista Lupi. Canale diplomatico aperto, ma niente svendite da parte del governo italiano, questa è la linea. Vabbè, sono in chiusura, ricordo intanto l'articolo, ricordo il titolo della Gazzetta dello Sport, oggi è arrivata, e quest'anno, visto che il mio Milan non va assolutamente, sono pronto a dire forza Roma, avendo la moglie che tifa la Roma, che devo fare, almeno in famiglia qualcuno spero festeggi quest'anno. E allora Roma 10 e gode, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, record storico, nessuno ferma i giallorossi, la vittoria 1-0 sul Chievo, nessuno ferma anche il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile scovato sui giornali, oggi addirittura in prima pagina della Stampa, interesserà certamente Miriam Lucchetti, che mi prenderà borsettate appena esco da qui, perché Vittorio Sabadin fa sapere in prima pagina della Stampa che la borsetta di ogni donna è un tesoro, secondo una ricerca dei grandi magazzini John Lewis di Londra, che sono andati a calcolare qual è il valore medio degli oggetti presenti nella borsetta di una donna, borsetta che non va mai guardata, ricordatevi cari maschietti, ebbene uno dei luoghi più riservati che esistano, è quasi impossibile, maleducato, guardarci dentro. Il valore in media di quello che portano le borse delle donne è di 1200 sterline, circa 1400 euro, calcolo fatto sulla base del costo dei prodotti più venduti, a partire dalla borsa stessa, 249 sterline per una Ted Baker, e dentro ci sono rossetto, profumo, crema per la pelle, spazzola, mascara, fondotinta, correttore, borsellino, occhiali da sole. E ma chi se ne frega, ma vi rendete conto, in prima della Stampa, amici della Stampa, La Carta Costa e il giornale radio in arrivo.